domenica e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire di volta in volta con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca e saluto Alessio Nannini che insomma spero che prima o poi tornerà a essere co-conduttore di questa trasmissione dopo un pochino di assenza. Il luogo comune che tratteremo oggi è peggio di noi solo la Grecia e ne parliamo di solito dico in collegamento telefonico, ma questa volta ho insomma la fortuna di averlo come ospite qui accanto a me. Ne parliamo appunto con Marco Santopadre, giornalista e analista politico della radio, di Radio Città Aperta appunto, e anche del giornale online Contropiano. Allora Marco, subito hai visto il luogo comune, peggio di noi solo la Grecia. Se dovessi fare un po' un quadro della situazione greca attuale in questo 2013, qual è la situazione là? Beh, non so se in Europa c'è un paese che in effetti sta a livello della Grecia. La Grecia è probabilmente il paese che ha cominciato a subire la crisi da prima, l'ha subita da subito in maniera molto molto pesante, frontale, per caratteristiche storiche, economiche, sociali e anche geopolitiche, innanzitutto perché le ricette che le sono state applicate, che sono state applicate dalle istituzioni europee e internazionali, ormai insomma c'è la famigerata troica che per i greci è un po' l'equivalente dell'uomo nero del diavolo, no? E ha ragione, appunto la Grecia è un paese che in fondo conta poco nell'Unione Europea, sia a livello di popolazione, sono neanche 11 milioni di abitanti, è un paese che comunque è ai margini geograficamente del continente e quindi è chiaro che l'Unione Europea non ci è andata con cautela, diciamo, ha cercato di applicare subito e senza grandi complimenti ricette draconiane che appunto ormai dal 2007 ad oggi hanno prodotto risultati catastrofici, no? La notizia proprio di questi giorni è che almeno 1 milione di famiglie elleniche, quindi veramente quasi il 10% della popolazione del paese, ha subito in maniera o temporanea o permanente il distacco dell'energia elettrica, perché appunto dal 2011 l'allora primo ministro Evangelos Venizelos, socialista, impose una nuova tassa sugli immobili, una sorta di IMU ma in versione amplificata, perché grava più pesantemente sui redditi delle famiglie che hanno appunto come proprietà un immobile e appunto in una situazione in cui c'è la disoccupazione che è dato di ieri al 27,2% ufficiale. Sappiamo che le statistiche spesso sottovalutano questo fenomeno, no? Perché non valutano come disoccupati chi magari lavora per un mese all'anno e non è certo classificabile come qualcuno che ha un reddito che è occupato, fisso, insomma. Però diciamo che ufficialmente c'è l'astronomica cifra del 27,2% di disoccupazione che sotto i 25 anni arriva oltre il 50%, e calcolando che ci sono stati decine di migliaia di giovani greci che sono emigrati nel frattempo, altrimenti il conteggio dei disoccupati arriverebbe tranquillamente al 30%. E in una situazione come questa in cui c'è un terzo della popolazione attiva che non ha un reddito, non ha un lavoro, chi lavora ha salari che sono stati decurtati dalla troica e dai vari governi anche del 30%, è chiaro che un nuovo balzello, una nuova gabella come questa tassa che è stata appena riconfermata dal governo tripartito che si chiama EFA, imposta appunto sugli immobili, rende impossibile pagare come dire tutto quanto, per cui bisogna scegliere se pagare gli alimenti e le cure oppure pagare il più. E quindi in questi ultimi anni che cosa è successo? Cioè l'Europa in che maniera si è rivolta alla Grecia? Qual è, che volto ha mostrato e che cosa vuole dalla Grecia? E la risposta sarebbe i soldi, e quello siamo tutti d'accordo, ma come ha preso questi soldi? No, io invece no, non risponderei ai soldi, perché come dicevo prima la Grecia è un paese piccolo, periferico, non certo importante geostrategicamente, e ha come dire un PIL che equivaleva all'inizio della crisi al 3% circa del PIL dell'intera Unione Europea, quindi se la Unione Europea cercasse veramente soldi si dovrebbe rivolgere a paesi ben più importanti, la Francia, l'Italia, la Germania, eccetera eccetera. Invece no, si rivolge ai paesi periferici perché in ballo non c'è tanto l'estrazione di denaro, ma l'imposizione col ricatto appunto del debito estero e del debito pubblico di un nuovo modello, cioè in qualche modo le riforme che l'Unione Europea in questi ultimi anni non è riuscita a imporre per via politica, perché sappiamo che la coerenza politica dell'Unione Europea è abbastanza scarsa, no? L'unico di fatto organo veramente politico è la Commissione Europea, che è espressione dei governi, non dei parlamenti. Il Parlamento Europeo, basta vedere i tassi d'affluenza delle varie popolazioni alle urne quando si vota per il Parlamento Europeo, conta poco o nulla, e quindi c'è una mancanza, diciamo, di carattere, di coesione politica, e quindi non è riuscita a imporre tutto quello che voleva, e quindi le riforme, le controriforme, anzi in realtà vengono imposte approfittando di una crisi che sicuramente è reale e gravissima, ma che viene gestita da una parte dell'Unione Europea, da alcuni ambienti legati soprattutto all'asse franco-tedesco, per in qualche modo obbligare i paesi che non si erano adeguati completamente a adottare appunto forme che sono caratteristiche di un liberismo anglo-americano, che paradossalmente viene imposto alla Grecia, all'Italia, alla Spagna, no, all'Irlanda, al Portogallo, adesso a Cipro, ma che invece in Germania e in Francia, cioè i paesi che impongono agli altri i famosi diktat, sono ben lontani questi modelli dall'essere applicati, no? La Germania e la Francia mantengono l'industria di Stato, non hanno privatizzato le grandi aziende, hanno una banca centrale forte. Ma io infatti proprio a questo proposito ti voglio chiedere, in Grecia abbiamo esempi di ragazzini che si presentano in classe malnutriti, gente che sviene sul posto di lavoro per la fame, proprio fisicamente sviene di fame, aumento dei casi di HIV, aumento del disagio mentale, che tu dici, ma il disagio mentale è strettamente connesso anche alla ricchezza economica di un popolo. Ovviamente se un popolo è in grande sofferenza, chi è borderline, per così dire, ovviamente può avere un disagio e accusare anche fisicamente e mentalmente questa nuova condizione di povertà. La Chiesa o le organizzazioni umanitarie, l'ONG appunto, che si sostituiscono allo Stato per distribuire pasti caldi o per esempio durante le proteste, non so, leggevo la protesta per esempio degli agricoltori che distribuivano la verdura e la frutta, e si erano creati code chilometriche per cui la protesta era diventata il mezzo con cui portare fisicamente la cena a casa, poter portare le arance, le olive, eccetera eccetera. Ma insomma, questo quadro, è questo anche il vero volto dell'Europa? Sì, diciamo che ci sono stati i primi anni dell'integrazione europea, della nascita dell'euro, che sono stati un po' un sogno, no? Un'illusione, per cui i paesi che erano in fondo arretrati dal punto di vista politico e soprattutto economico, come ad esempio la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, quelli che in maniera insomma abbastanza altezzosa vengono ribattezzati PIGS, a volte con una I, a volte con due se ci si inserisce l'Italia insieme all'Irlanda, e come dire, è stata paventata la possibilità per questi paesi, tramite l'integrazione europea, politica e economica, di arrivare allo stesso livello, no, dei grandi paesi fondatori. E in realtà poi è venuto il vero volto dell'Unione Europea, cioè un volto che vede in un contesto di crisi alcuni paesi approfittare di questa crisi per ristabilire le gerarchie interne al continente, e quindi mettere al loro posto paesi che, come ripetevo prima, non sono particolarmente importanti dal punto di vista economico, ma lo sono perché rappresentano già e rappresenteranno ancora di più in futuro una sorta di periferia interna attraverso la quale l'accumulazione economica e la dominazione politica dei paesi centrali potrà esercitarsi appunto già all'interno dello stesso continente. Quindi il sogno di un'Europa unita in cui i paesi sono alla pari, in cui la decisione delle riforme, del futuro assetto del continente avvengono tra pari, che più o meno sono allo stesso livello, ormai è ampiamente tramontato. La Troica non è un'invenzione giornalistica o come dire un'immagine metaforico, retorica. Esistono appunto dei personaggi che ogni mese si recano ad Atene, uno in rappresentanza del Fondo Monetario, uno in rappresentanza della Commissione Europea, uno in rappresentanza della Banca Centrale, a ordinare a governi che teoricamente sono sovrani, perché eletti dal popolo e che dovrebbero rispondere alle leggi del proprio paese, alle proprie costituzioni, invece a ordinare senza che vi sia un meccanismo politico comune cosa va fatto, altrimenti non vengono erogati i famosi prestiti, che in realtà non sono prestiti, sono un aumento dell'indebitamento di quel paese, che fa peggiorare paradossalmente la situazione, tanto che la prossima volta che si chiederà appunto un prestito all'Unione Europea, alla Banca Centrale, al Fondo Monetario, si sarà ancora più deboli e quindi più inclini a soddisfare qualsiasi richiesta. La Troica sta chiedendo di fatto di abbassare gli stipendi a livelli che sono extraeuropei. In Grecia attualmente... Ma io ho letto recentemente che hanno chiesto per i lavoratori part-time un abbassamento dello stipendio minimo a 250 euro. Questo alcuni multinazionali, nel numero mi pare di 11, l'hanno chiesto una parte di questi 11, perché non abbassiamo gli stipendi minimi a 250 euro? Gli altri, ma questo guarda, è anche, se non fosse tragico sarebbe comico, hanno rilanciato, hanno detto: ma scusa, facciamo una cosa, superiamo il problema. Perché dobbiamo ancora stare a ragionare all'ordine dello stipendio minimo? Leviamo proprio il concetto di stipendio minimo. Perché ci deve essere uno stipendio minimo? Che è solo un freno per il padronato per assumere, poter licenziare, poter in qualche modo portare ricchezza. Perché loro la mettono sempre, ovviamente, da questo punto di vista, no? Noi che cosa vogliamo? Vogliamo la ricchezza, ricchezza per tutti. Ma se tu ovviamente il padrone lo rendi libero di licenziare, di oggi mi servi, domani non mi servi, via lo stipendio minimo, eccetera, eccetera, eccetera, così a cascata, appunto. Questo renderà il mercato più vivo, ci sarà più opportunità. È molto bella la parola nei tempi in cui viviamo, di opportunità. Cioè, in realtà tu non mi stai sfruttando, mi stai dando un'opportunità. E quindi appunto hanno chiesto alcune di queste multinazionali al governo greco di levare gli stipendi minimi. Ma quello che ti voglio dire io è, in tempo, visto la tua analisi che hai fatto dell'Europa e come si sta presentando nei confronti della Grecia, in tempo di crisi però... ogni popolo tende, è proprio dell'animo umano, è inutile non negarlo, a cercare l'uomo forte che con la sua epifania, il suo mostrarsi, no? La sua epifania salvifica dal balcone, e noi lo dico non a caso perché siamo in Italia e abbiamo avuto questo tipo di esperienza, dal balcone dello Stato, possa risolvere tutto in maniera, diciamo, rapida, semplice. Se poi i metodi sono poco o per nulla democratici, vabbè, chi se ne frega, questo è una cosa che vedremo in seguito. L'importante è risolvere il problema subito, anche con metodi spicci. Quello che ti voglio chiedere è come si sviluppa e secondo te quanto piede prende e prenderà il fenomeno di Alba Dorata in Grecia? Allora, per molti anni, esiste da molti decenni, Alba Dorata è di fatto un partito che è stato a lungo minuscolo, una pura testimonianza di un periodo che negli anni 70 ha visto in Grecia una dittatura militari di estrema destra, in cui insomma il fascismo era l'ideologia ufficiale e che aveva l'appoggio internazionale di appunto altri regimi di estrema destra e anche di apparati internazionali che in nome dell'anticomunismo insomma hanno fatto veramente carne da macello della democrazia, di quei principi di cui poi ci si vantano pubblicamente. E era un ricordo, appunto una testimonianza, finché la crisi economica ha investito a tal punto milioni di persone che fino a quel momento pensavano appunto di essere in Europa, no? Di essere finalmente libere dalla preoccupazione del lavoro, del futuro, della pensione, della cura, che quindi pensavano di aver risolto per sempre i propri problemi, i problemi dei propri figli. All'improvviso, veramente in tempi rapidissimi, ci si è accorti che non era così. E quindi le risposte, è chiaro che le risposte che il governo greco, i governi di vario colore che si sono succeduti in questi anni davano, erano risposte che peggioravano il problema. E quindi se da una parte c'è stato un cambiamento politico radicale con la distruzione di fatto del Partito Socialista Panellenico, il PASOK, che è stato a lungo il partito egemone a sinistra e nel centro-sinistra, e invece la crescita elettorale e d'immagine di un nuovo partito, la coalizione della sinistra radicale Syriza, e dall'altra parte però appunto molta gente si sta rivolgendo all'estrema destra, che non è un'estrema destra, come dire, alla Front National francese o paragonabile a fenomeni anche più estremi che ci sono sicuramente in Europa e che stanno proliferando, ma è un partito che si richiama apertamente al neonazismo, ha nel simbolo la svastica, anche se nella versione originaria del meandro, da cui tra l'altro, a cui tra l'altro si ispirò proprio il movimento nazionalsocialista tedesco insieme appunto a quella in uso da millenni in India. È un partito che più volte ha detto che insomma si considera tra gli adoratori di Adolf Hitler, dell'ideologia hitleriana, e che nonostante questo purtroppo in una situazione di crisi, di sbandamento, di paura sociale diffusa, riesce a catalizzare appunto le attenzioni, il voto e anche la militanza, l'attivismo di migliaia di giovani È impressionante. Prima in Grecia esisteva veramente, Alba Dorata aveva pochissime sedi semiclandestine. Oggi, andando ad Atene o andando in altre città della Grecia, ci si accorge che quasi in tutti i quartieri ci sono sedi di Alba Dorata, e questo fa sorgere già un primo dubbio: chi finanzia un movimento che fino a 2 anni fa non esisteva e che oggi può contare appunto su un'infrastruttura degna di un grande partito di massa? E pochi giorni fa, insomma, è stata organizzata in TV una trasmissione in Grecia a cui hanno partecipato da soli 4 deputati di Alba Dorata in una delle trasmissioni più seguite, senza contraddittorio, cioè il conduttore non ha pensato di dover invitare un contraltare, qualcuno che contestasse le loro tesi. Questo la dice lunga su un fenomeno che è tipico dei momenti di crisi. Una parte importante delle classi dominanti, rispetto all'insorgenza sociale, alla protesta, alla rabbia che certe volte prende anche, come dire, forme violente di scontro, preferisce foraggiare, sostenere, appoggiare movimenti di estrema destra che, se a parole sono antisistema, quindi mettono in dubbio, no, l'assetto, e quindi promettono soluzioni facili e a buon mercato, dall'altro in realtà nella concretezza dei loro atti si fanno paladini delle classi dominanti e dell'assetto. Le aggressioni sono continue, ogni giorno ci sono aggressioni contro i politici che Alba Dorata dice di contestare, contro i banchieri, no, contro gli immigrati, contro gli omosessuali, contro gli attivisti sindacali, contro i giovani dei centri sociali. E quindi la dimostrazione che il fascismo, io sinceramente non so se è il caso di dire che non arriverà mai al potere in Grecia. È chiaro che nell'Unione Europea appare difficile che un movimento neonazista possa, no, accedere alle stanze del potere direttamente. Però è chiaro che un movimento neonazista che ha il 10-15%, che gode di una così tale popolarità, che gode dell'impunità rispetto alla polizia e ai tribunali, e quindi può permettersi di fare quello che vuole, non, diciamo, serve neanche che vada al governo, che entri nella stanza dei bottoni, è già di per sé forza di governo e di controllo. E Marco, come sempre quando arriviamo a questa parte della trasmissione, facciamo una brevissima pausa musicale con una canzone legata in maniera spesso anche ironica al luogo comune che trattiamo, visto che il tema è economico di questa puntata. Ci andiamo a sentire Daniele Silvestri con Monetine. Di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di padronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Sul futuro qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco, prendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovare, l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo, adesso le ricordo se non mi confondo. Non mi impiccio, se vinci prendi tutto, se perdi in fondo è solo qualche spiccio. Il rischio è minimo, la posta in gioco alta. Prendi una moneta, amico, del gratto. Credici, provaci, potresti fare 13. Se cedi il turno adesso sei pazzo, riflettici. Il tuo destino sta girando ora. Sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina mattina per questa serata che non può finire. Una per trovarti, l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei. Così fanno sei, una monetina per poterti dare quello che mi hai chiesto. Una per un viaggio, ancora non è tutto. Una monetina per il Chiapas, una per Filippo che è partito per Caracas. Milioni di monete per il sogno di una terra dopo il mare. Per chi malgrado tutto continua a navigare. Una monetina per la Cina, una per il ponte sullo stretto di Messina. Sperando che il calore della terra siciliana possa sciogliere la nebbia fissa in Valpadana. Reggae, una moneta, almeno una moneta contro la sfortuna. Una moneta, per cortesia, una moneta e dopo vado via. Una moneta, almeno una moneta contro la sfortuna. Una moneta, per cortesia, una moneta e dopo vado via. E ritorniamo in studio dopo la pausa musicale, sempre di Luca dai microfoni di Radio Città Aperta sugli 88.9, questo è Luogo Comune. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello della Radio Città Aperta e ci sono io, se siete mai curiosi di vedere come sono che parlo in radio, o su Twitter digitando @luogoc. Il tema di oggi è peggio di noi solo la Grecia, ne parliamo appunto con Marco Santopadre. Fino adesso abbiamo analizzato la sponda del Mediterraneo a cui si riferisce la Grecia, adesso facciamo un salto e ritorniamo qui da noi. Senti Marco, in Italia nel 2008 sappiamo che si è insediato l'ultimo governo Berlusconi, forse uno dei peggiori della storia repubblicana, dominato da scandali sessuali e finanziari, di corruzione, spesso non solo a livello nazionale ma a livello regionale. Qui abbiamo avuto lo scandalo di Fiorito, al nord c'è stato il presidente della regione Lombardia Formigoni, insomma ogni regione ha avuto i suoi grattacapi, lo spread impazziva, la Germania scalpitava e arriva Mario Monti che, come ripeteva sempre Berlusconi, e su questo però oggettivamente non si può dare torto, non è stato eletto da nessuno effettivamente, cioè noi in pratica siamo stati commissariati dall'Europa. Ma com'è potuto accadere questo? No, una battuta, non solo non è stato eletto da nessuno, ma poi quando si è presentato alle elezioni dopo un anno di governo l'hanno votato in pochissimi, ha fatto una figuraccia madornale, quindi no, Berlusconi è quello che è, ma ogni tanto dice anche qualcosa di condivisibile. È successo perché appunto il meccanismo si è inceppato. L'Italia è un paese importante, al contrario della Grecia o del Portogallo o dell'Irlanda, dal punto di vista geostrategico, è stato uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, è un paese importante perché ha 60 milioni di abitanti, è un paese importante perché nell'Europa in cui c'è stata la deindustrializzazione e la delocalizzazione invece mantiene un alto tasso di produttività di piccola e media impresa e quindi in qualche modo bisognava non fare come la Grecia, no? Mandarla a fondo del tutto per poi prendere ciò che serviva, ma cercare di salvare il salvabile sempre tenendo conto degli interessi dell'Unione Europea, delle classi dominanti del continente. E quindi, come dire, c'è stato il commissariamento, cioè Monti è stato il commissario politico dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea in Italia, però ha dovuto fare i conti in una situazione, come dire, forse che neanche a Bruxelles e a Francoforte immaginavano, in cui c'è una parte della borghesia, delle classi dominanti di questo paese che non si riconoscono nel progetto europeo e si riconoscono invece in una sorta di capitalismo feudale che è facile insomma identificare con appunto, no, un personaggio come Silvio Berlusconi o la sua coalizione che, come dire, non accetta le regole europee, non le accetta perché obiettivamente è materialmente contrapposto a queste regole e quindi remava contro. E tant'è che Berlusconi è stato sostituito con Monti, ma Monti non ha potuto fare a meno di governare insieme a Berlusconi e in un paese che poi si è rivelato, no, spaccato in tre blocchi più o meno uguali, tra Movimento 5 Stelle, centrosinistra, il centro e il centrodestra. Quindi è successo perché appunto ogni paese riceve le attenzioni della troica a seconda del proprio ruolo, delle proprie dimensioni, della propria importanza. Senti Marco, ma questa troica che ci comanda, no, con attraverso tagli alla spesa pubblica, la spending review, il pareggio di bilancio messo nella costituzione dei paesi europei, i tagli alla sanità, all'assistenza dei poveri, dei più debili, deboli, la totale arbitrarietà nel mondo del lavoro col patronato che di fatto può fare ciò che vuole del lavoratore senza incontrare una reale opposizione. Dietro però questi numeri c'è carne viva delle persone, ma io quello che ti chiedo è: È questa una risposta storica, quindi non ragioniamo nel 2013, ragioniamo negli ultimi 20 anni, al precedente ventennio invece di rivendicazione di forte lotti nel nostro continente, lotte sociali, lotte diciamo non solo salariali, lotte nel mondo del lavoro, anche nel mondo della famiglia, nei rapporti tra uomo e donna. Può essere una grande onda di risposta questa del padronato? Sì, sicuramente è la rivincita del padronato e di una nuova classe dominante che è trasversale al continente, ma che si identifica con alcuni paesi in particolare, quelli che citavo prima. È una rivincita che però ha gioco facile, perché le forze della sinistra a livello politico, sociale e sindacale, che hanno anche sono state anche protagoniste, no? Per appunto decenni in cui si sono conquistati diritti che fino a prima non esistevano. Noi siamo abituati a considerare la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, dei diritti universali acquisiti per sempre. No, sono il risultato di decenni di lotte materiali, concrete, che hanno visto appunto, come dicevi tu giustamente, persone in carne e ossa scendere in piazza, scioperare, occupare, partecipare, manifestare, no? Occuparsi del proprio futuro, prendere in mano il proprio futuro e cambiarlo. A un certo punto la sinistra ha smesso, ha pensato di poter governare quello che c'era, contrattando con appunto la propria controparte mano a mano, e la crisi invece ha cambiato completamente le regole del gioco, ha spiazzato appunto una sinistra internazionale che è rimasta un welfare che oggi non c'è più. Oggi non c'è più il welfare perché non ci sono più risorse da ridistribuire, e siccome le risorse sono di meno, la guerra per accaparrarsele è più feroce, è la legge della giungla che diventa la regola, la normalità. E per tornare, per convincere la gente, come si usa dire ultimamente, a tornare a lottare in un periodo in cui non si vince più e non si vince più da tanto tempo, bisogna cominciare a prefigurare qualcosa di meglio per cui valga la pena lottare, ed è quello forse che manca un po' in questo scenario che abbiamo descritto. Senti, ma tornando appunto a diciamo lo scenario politico italiano, in una battuta veloce, come ti spieghi il successo del Movimento 5 Stelle, che dal punto di vista politico è la grande novità di questi ultimi mesi / anni, insomma? È difficile spiegarlo in poche parole, però capito. Sicuramente è il frutto di una difficoltà, di un disagio sociale che accomuna naturalmente elettori di destra, di sinistra, gente che non ha mai votato, che aveva smesso di votare, in cerca di una risposta semplice, di una scorciatoia, no? Cioè, come dire, risolvere i problemi senza intaccare quello che è la struttura di questo paese. Si pensa, riducendo i costi della politica o con la trasparenza, di risolvere problemi che sono epocali e che non sono italiani, sono anche appunto greci o sono francesi o sono inglesi o sono americani, e quindi si pensa che il problema sia qualche caratteristica specifica del paese Italia, e non ci si accorge che siamo immersi in un uragano mondiale che deve avere una soluzione, che non può essere certo quella, diciamo, della piccola riforma, anche perché dall'altra parte non mi pare ci sia nessuno disposto a concedere nulla. Senti Marco, arrivati sempre a questo punto della trasmissione, quindi alle battute finali, c'è la domanda secca che rivolgo al nostro ospite sul luogo comune, perché come ho detto nella presentazione, questa puntata, questa trasmissione serve per confermare o smentire. Quindi Marco, in una risposta secca ti chiedo: peggio di noi solo la Grecia? No, anche il Portogallo, Cipro, l'Irlanda, un pezzo dell'Italia del Sud, perché l'Italia non è, come dire, un'entità così granitica. No, c'è chi sta peggio, ma l'Italia sta peggio di altri sicuramente. Senti Marco, ti ringrazio per essere stato mio ospite, e quindi ti saluto. Grazie a voi. E ringraziamo Marco Santopadre per essere stato dunque nostro ospite. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a visitare il sito www.radiocittaaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non esistono più le mezze stazioni, ovvero la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. E da Luogo Comune è tutto. L'appuntamento è per domenica prossima alle ore 10:45, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Vi invito sempre a spingere e a cercarci su Facebook come Luogo Comune col logo di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca è tutto, una buona domenica, ciao!